Moro, siamo in diretta con un compagno di medicina. Pronto, ci senti? Sì, ciao a tutti e tutti. Ok, se ci racconti un po' come va il concentramento, come è andata la notte nelle facoltà occupate, ma soprattutto qual è la prospettiva per la giornata di oggi? Allora, qui dal Domoro siamo appena partiti, il corteo insomma si sta muovendo, stiamo per andare a prendere la metro a Castro Pretorio, per dirci poi come ieri a Colosseo e partire il corteo verso Montecitorio. Il corteo qui della presenza è molto grosso, grosso insomma anche numeri determinati soprattutto dalla giornata di ieri che ha fatto crescere incredibilmente la mobilitazione. Siamo lo striscione di apertura, recita molto chiaramente noi cultura e conoscenza, voi adesso e violenza, Daniele e Mario liberi subito. Daniele e Mario, tra l'altro vi dico anche, abbiamo sentito, magari non so se vi è già arrivata immediatamente la notizia, abbiamo sentito Piazzale Clodio, le notizie sono che i capi di accusa sono quelli che si poteva aspettare, sono violenza e oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, l'udienza si sta svolgendo a porte chiuse ma non è ancora iniziata. Ah, perfetto. Beh, noi chiaramente insomma anche i cori che stanno venendo lanciati qui in questo primo tratto di corteo riguardano e vanno chiaramente subito e immediatamente a Daniele e Mario. Delle delegazioni da tutte le facoltà sono partite e sono andate stamattina sotto Piazzale Clodio appunto per chiedere l'immediata scarcerazione dei due studenti arrestati ieri. Oggi comunque insomma resta come obiettivo principale di nuovo ancora una volta Montecitorio nel tentativo di bloccare definitivamente questo DDL. Anche se quello che leggiamo è che addirittura la storia potrebbe essere più lunga, visto il ricomportamento della maggioranza, dovrebbe arrivare addirittura a lunedì o a martedì alla votazione definitiva. Pronto? E niente, c'è...